30 minuti in cronaca di Gigi Donelli. Concorsi pilotati attraverso commissioni compiacenti per promuovere figli, parenti o amici di baroni universitari. Un'inchiesta della Procura di Firenze scuote il mondo accademico italiano. 8 docenti indagati e perquisiti dalla Guardia di Finanza in varie città con l'accusa di associazione per delinquere finalizzata all'abuso d'ufficio per le selezioni dei componenti delle commissioni d'esame per la selezione appunto di professori e ricercatori di politica economica agraria in una decina di facoltà. Un'indagine che denuncia la degenerazione nei metodi di selezione, chiedendo di riportare serenità, trasparenza e ancor più equità nelle scelte accademiche. Buonasera e benvenuti a questo nuovo appuntamento con 30 minuti in cronaca. Oggi parliamo di università, l'avrete capito, di come fare carriera, di come si dovrebbe fare carriera nell'università italiana, di quali strade vanno percorse e di quali magari assolutamente evitate. Con noi c'è il professor Nicola Gardini. Buonasera, professore. Buonasera a tutti. Dunque, Nicola Gardini insegna letteratura italiana e comparata all'Università di Oxford. 44 anni, laureato in lettere classiche all'Università di Milano, ha poi ottenuto un PhD in letteratura comparata negli Stati Uniti, dove è stato circa 5 anni nella prima metà degli anni 90. Ha da poco pubblicato un libro, I Baroni, pubblicato con Feltrinelli, in cui racconta, come da sottotitolo, come e perché sono fuggito dall'Università italiana. Eppure, professore, era iniziato piuttosto bene il suo percorso universitario. Addirittura, leggiamo, diventai ricercatore al primo tentativo. Sì, è proprio così. Infatti io stesso pensavo di esserci entrato, di avercela fatta, di aver rotto quella crosta che è l'ingresso nell'università senza appoggi, e di fatto appunto così andò. In realtà io vinsi un concorso, diciamo per merito, ma non avendo appoggi, non essendo spinto da nessuno, poi ebbi vita così difficile che in realtà mi resi conto di non essere mai diventato parte del sistema accademico. Quando si entra nell'università italiana, lei racconta, si apprende anche rapidamente che vincere non è sufficiente, si può vincere per un complesso di ragioni, magari anche per caso. Sì, è proprio così. A volte, diciamo, le qualifiche sono l'alibi della commissione, nel senso che può passare, come fu il mio caso, d'altra parte abbastanza raro, può passare qualcuno che abbia un curriculum sufficientemente qualificante. In realtà, se la persona che passa non è sostenuta da uno sponsor accademico, è ben difficile che appunto questa persona abbia vita serena e duratura all'interno del sistema, che inevitabilmente finirà per espellerlo. Qual è il percorso universitario dal punto di vista dei professori? Dunque, come si entra e a cosa si punta? Si entra per concorso nazionale, il bando viene pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale e si può concorrere per i tre livelli istituzionali della carriera accademica, cioè o per ricercatore o per associato o per ordinario. Solo questi sono, diciamo, gli incarichi normali, istituzionali, e si può concorrere per ciascuno di questi senza necessariamente essere già impiegato o incardinato in alcuna delle altre funzioni. Quindi ricercatore, associato ordinario. Questi sono i tre obiettivi, grossi. Esattamente. Chi non è ancora dentro l'università ambisce a diventare ricercatore. In genere si diventa ricercatore intorno ai 35 anni. Se si è fortunati, se si è appoggiati, si può anche diventare ricercatore un po' prima. D'altra parte esistono anche ordinari di 30 anni. Perché uno ambisce a diventare ricercatore a 35 anni? In università, diciamo, di lettere uno può laurearsi 10 anni prima. Cosa accade in quel decennio? In quel decennio si attende che il professore e lo sponsor, la persona insomma che ti ha seguito accademicamente fino a quel punto, deve preparare il terreno per bandire un concorso ad hoc. Tu verrai impiegato solo attraverso un concorso nazionale e non c'è altro modo per essere impiegati che passare attraverso un concorso nazionale, che non è facilissimo bandire, perché significa brigare, mettere d'accordo molto livelli professionali, dall'università alla facoltà al dipartimento, scontrarsi con logiche di potere in conflitto perenne, e solo i più abili, cioè i baroni, riescono a sistemare le cose in modo tale che un concorso si possa pacificamente svolgere e plausibilmente concludere con la vittoria del prescelto. Quindi grandi attività di diplomazia, di costruzione di rete, di affiliazione, costruzione, sì, di rapporti e dipendenze. Ricordiamo, lei in questi 10 anni che abbiamo citato era negli Stati Uniti, dove ha... Esattamente, io avevo completamente lasciato l'Accademia Italiana, mi ero laureato in lettere classiche, d'altra parte il mio professore era pure andato in pensione, quindi sicuramente aveva perso tutto il suo potere baronale, seppure ne aveva mai avuto. Io anzi, cioè, ero proprio tagliato fuori assolutamente. E quindi meglio partire. Meglio partire. Anche perché era una vocazione. Era, dire, sì, poi sua... davvero io non avevo voglia di restare in Italia. Semplicemente. So di amici che... aspettano e hanno aspettato a lungo il loro concorso promesso dal professore, e in quel periodo era assolutamente vietato assentarsi. So di amici che hanno vinto borse di studio super prestigiose in istituzioni straniere, è stato loro espressamente vietato di allontanarsi dal suolo patrio. Abbiamo detto, abbiamo anticipato, lei il primo concorso l'ha vinto, e l'ha vinto al primo colpo. L'ho vinto al primo colpo, esattamente. Mi candidai con grande ingenuità, non sapendo neppure che questo concorso fosse in arrivo, invece qualcuno lo sapeva bene perché era stato pensato per un candidato interno, come è consuetudine. Dunque il concorso era bandito per una signora che avrebbe dovuto vincerlo, che era scontato lo avrebbe vinto. Ecco, poi non stiamo a raccontare tutto, ma insomma questa signora di fatto viene in qualche modo, lascia questo percorso, lascia questa sorta di marcia già scritta, per cui lei si ritrova vincitore. Ma, come abbiamo detto prima, vincitore in realtà sulla carta. Sì, sulla carta. Beh, in realtà... Cosa accade quando arriva all'università? Beh, lo stipendio comincia ad arrivare regolarmente. Io sono di ruolo, devo fare i miei 3 anni di prova, cosiddetti, ai termini dei quali sarei stato confermato. E in realtà così andò. Fui confermato alla fine del mio 3° anno. Dunque, tutto regolare appunto sulla carta. Non andò l'accoglienza, cioè fui da subito concepito come un intruso, mandato da altri, imposto da esterni, e mi fu fatta chiaramente un'opposizione sottile ma innegabile. Che cosa significa nella pratica quotidiana? Nella pratica quotidiana significa che nessuno mi salutava, significa che nessuno mi diede il benvenuto, significa che non mi fu dato subito un ufficio, anzi mi fu dato dopo molti giorni, significa che ero invisibile. E nello stesso tempo lei avvertiva che non fosse in qualche modo nulla di personale? Sì, perché io al mondo accademico italiano ero assolutamente nuovo, la realtà tra l'altro palermitana è anche molto speciale di per sé, imputavo molti di questi comportamenti alla peculiarità dei palermitani, persone tutto sommato riservate, chiuse, magari un po' sospettose. D'altra parte, come poi avrei appreso, molti degli italiani sono sospettosi, quindi in fondo era tutto normale, sapevo che occorreva solo un po' di tempo e che mi sarei guadagnato la loro fiducia. Ecco, guadagnarsi la fiducia. Più tardi, tra un momento, parleremo anche di una sorta di controcampo di quello che è invece la carriera nel mondo anglosassone, di come certi meccanismi siano radicalmente diversi. Prima, concludendo però questo primo blocco, questa fiducia come poteva pensare di guadagnarsela, attraverso quali comportamenti? Beh, dimostrandomi efficiente, dimostrandomi utile al dipartimento, mettendo a frutto l'entusiasmo con cui io avevo vinto questo concorso, quello che ritenevo di poter offrire, le mie competenze e soprattutto insegnando. Quando ha capito che non sarebbe stato così? Quando, dopo aver insegnato per un certo periodo, mi fu chiesto di non insegnare più mi furono ridotte enormemente le ore dei miei seminari, e l'unica dottoranda che riuscì ad avere mi fu anche questa tolta. Perché? Perché senza ragioni evidenti venni escluso da tutte le commissioni di dottorato, insomma... Perché? Qual è la ragione? La ragione è che non dovevo diventare utile, non dovevo diventare essenziale, non dovevo togliere spazio alla candidata che ancora doveva essere sistemata. Perché alcuni conti andavano ancora regolati e organizzati. Assolutamente. L'architettura in realtà stava continuando il suo percorso. Esattamente, tanto che prima ancora che io me ne andai, venne bandito un concorso per la detta signora, la quale finalmente lo vinse. 30 minuti in cronaca. Ancora buonasera da Gigi Donelli, rieccoci a 30 minuti in cronaca. Oggi, questa sera, parliamo di università, lo facciamo con Nicola Gardini, che lo ricordo insegna letteratura italiana e comparata all'Università di Oxford. Nicola Gardini ha 44 anni, un percorso universitario che l'ha portato in un certo senso anche a produrre e denunciare un volume, il titolo è I baroni, come e perché sono fuggito dall'università italiana. Allora, professor Gardini, innanzitutto il mondo anglosassone è davvero diverso da questo punto di vista? Il mondo anglosassone è diversissimo, sia quello americano, dove mi sono formato dopo la laurea italiana e dove periodicamente ho insegnato come visiting professor, sia quello inglese, dove insegno oggi, in particolare Oxford. Non è la solita, diciamo, debolezza italiana, esterofilia, no, è sostanza. È sostanza, è davvero sostanza, si sta parlando di strutture molto diverse, si sta parlando di etiche diverse, si sta parlando di mondi in cui in primo luogo viene la responsabilità istituzionale che ognuno ha all'interno di un'università o di un dipartimento, far crescere appunto il dipartimento. Ecco, nella sua prima esperienza fu, diciamo, tutt'altro che piacevole, il tentativo di entrare a Cambridge non ebbe successo. No, a quei tempi io insegnavo ancora, ero di ruolo per l'insegnamento di latino e greco nei licei classici a Milano, in Italia, e mi fu offerta questa possibilità, mi dissero: ma perché non concorri per un posto a Cambridge? Io ero ancora abbastanza giovane, fresco di dottorato, avevo pubblicazioni sufficienti, il mio inglese esisteva, quindi dissi: perfetto, vado, ma non fui scelto, fui sorteggiato tra i finalisti, fui shortlisted come si dice, ma non ce la feci. Ecco, quanto durò la procedura dal momento in cui lei presentò la domanda al momento che le dissero: ci dispiace ma non è andata? Le procedure sono rapidissime in Inghilterra, tanto che uno si chiede: ma come fanno a essere così sicuri del responso? Passarono forse, non so, 20 giorni dal momento della conclusione della chiusura del bando alla convocazione. Vieni convocato, fai una lezione di prova che deve durare un numero esatto di minuti, in genere 30, quindi segue un colloquio anch'esso di 30 minuti e non passano spesso neanche 24 ore prima di ricevere la risposta. Ecco, la sensazione di questa prima bocciatura, naturalmente immagino un po' di amarezza perché non sì, fa piacere. Sì, grande amarezza. Ecco, grande amarezza, ma la sensazione di avere capito le ragioni della scelta al di là del condividere è molto la commissione non dà spiegazioni, semplicemente ti dice o sì o no e tu resti nel dubbio di aver sbagliato tutto o forse niente e di non essere stato semplicemente capito. In realtà, come adesso posso capire avendo invece più esperienza e essendo parte di quel mondo, la commissione esclude tutti coloro che non ritiene sufficientemente idonei al tipo di profilo professionale che offrono. Quindi se hanno bisogno di un geometra, anche se si dovesse presentare un grandissimo architetto, non lo prenderanno, prenderanno il geometra perché è di quello che hanno bisogno. Ecco, a Oxford le cose sono andate diversamente. Come avviene l'esame? Chi partecipa? Che ruolo svolgono studenti e professori in questa procedura? Il posto viene messo anche questo a bando, il bando si trova su dei siti. Mandi il curriculum, mandi una serie di lettere di reference, come si dice in inglese, cioè vieni presentato, e un numero limitato di pubblicazioni. Vieni convocato, se vieni convocato, quasi meno di un mese dopo la chiusura del bando, e anche a Oxford io dovetti sostenere una lezione di prova su un tema scelto da me. Possibilmente all'interno di una rosa di possibilità che il dipartimento stesso offriva agli studenti di secondo anno e quindi ci fu il colloquio di mezz'ora. C'erano gli studenti? Sì, gli studenti assistevano alla mia lezione, anzi hanno avuto un ruolo attivo poi nel processo decisionale perché pur non essendo determinanti, comunque possono orientare le decisioni verso il sì o verso il no. È importante che gli studenti si sentano rassicurati dalla persona che ha dato la lezione. Ecco, secondo lei che cosa misura, diciamo, qual è la misura dell'eccellenza di un professore universitario o di un centro universitario per estensione? La serietà della ricerca e la totale devozione all'insegnamento. Solo questi possono far sì che un'università si sviluppi. Di conseguenza la centralità dello studente. Solo quando si ha davanti costantemente la formazione degli studenti si può creare un'università seria. Ecco, nelle università italiane spesso accade, o almeno è accaduto chi nella mia generazione appunto l'ha frequentata, di avere un indispensabile sforzo di costruzione di legami e relazioni che arrivano per esempio anche alla richiesta della tesi di laurea e così via. È un processo comune che ha ritrovato nelle università anglosassoni? Beh, in realtà ad Oxford gli studenti sono seguitissimi, quindi no, non, lo studente non si sentirà mai, non passerà mai attraverso quella fase di smarrimento o di incertezza, per cui o anche di solitudine apparente, per cui si debba chiedere ma chi mi seguirà? No, lì c'è davvero l'imbarazzo della scelta. Gli studenti sono seguitissimi, noi stessi professori ci offriamo alle loro esigenze, e spesso è lo studente a dire no, grazie, preferisco andare da un'altra parte. Ecco, siamo passati, abbiamo compiuto un balzo di fatto dal Mediterraneo a Oxford. Adesso vorrei ritornare in Italia per chiederle anche qual è il momento in cui lei ha deciso che di fatto l'Italia non poteva offrire delle possibilità per quello che era il suo progetto professionale. Assolutamente. Ah sì, è stata proprio una decisione improvvisa, un'illuminazione, una certezza innegabile, quando ho capito che non avrei mai avuto il trasferimento da Palermo. Io nel frattempo avevo vinto un altro concorso, un concorso da professore associato, cioè avevo vinto l'idoneità, vale a dire il titolo e non il posto. Occorreva che il posto venisse creato, e in genere il posto viene creato entro 3 anni dal momento in cui si ottiene l'idoneità. È consuetudine che la stessa università in cui si è già impiegati crei il posto per la nuova idoneità, ma questo a Palermo non sarebbe certamente successo. Palermo voleva liberarsi di me, e d'altra parte io volevo liberarmi di questa situazione che non mi faceva crescere, mi teneva come un calciatore in panchina. Mi mossi disperatamente per tutta la penisola cercando una sede che mi potesse chiamare, come si dice con un termine tecnico, cioè che mi potesse far spendere l'idoneità. Questo è molto difficile che accada, perché un'idoneità comporta la creazione di un nuovo posto in una nuova università, quindi di un nuovo budget. È facilissimo invece che l'università dove già si è impiegati faccia un semplice passaggio di carriera e quindi debba spendere unicamente i soldi dell'aumento salariale, niente di più, il budget già esiste. Quindi io lottavo davvero contro una situazione ostilissima. Sembrò che un paio di università invece a un certo punto fossero molto disposte a prendermi, ma fu un'illusione, venni veramente tenuto in attesa invano, persi anche delle occasioni non da poco, come importanti borse di studio, ma come ho già detto, se si è in attesa, se ci costringono ad attendere, non si deve abbandonare il suolo patrio, anche perché la concorrenza è spietata, ti allontani tu, ne arriva un altro. L'attesa è un elemento centrale della vostra esperienza professionale. Assolutamente, nel sistema baronale, che è il nostro sistema universitario, sì, si aspetta, guai chiedere quanto. Non si può mettere fretta a chi ci ha fatto la finta o forse vera promessa, anche questo non è chiaro se la promessa sia fondata o meno. C'è un possibilismo che salverà sempre comunque la reputazione di chi noi abbiamo scelto come protettore o che ci ha scelti come protetti, e di conseguenza così è una specie di deserto dei tarpi. Ecco, la descrizione che lei dà del mondo universitario, della sua esperienza all'interno del mondo universitario, secondo lei si riferisce all'università che ha citato, mi spiego, Palermo piuttosto che Oxford in questo caso, o stiamo parlando di due sistemi, cioè stiamo parlando del sistema italiano? Stiamo parlando di due sistemi. Io ho scelto di parlare del mio caso specifico. Peraltro lei cita Firenze, cita altre università. Assolutamente, e poi il sistema dei concorsi è su scala nazionale, quindi non c'è sede, per quanto localistica, per quanto remota, che non sia parte di una rete appunto nazionale, perché i concorsi presuppongono tutto un lavoro diplomatico che interessa tutti i docenti della penisola di una certa area disciplinare. Quindi se il concorso è a Palermo non significa che si brighi a Palermo, anzi si briga su scala nazionale altrove. Perché in quel momento il concorso è a Palermo. Esattamente, quindi... esattamente. E tutti sanno chi dovrà andare a Palermo piuttosto che a Trento. Ecco professore, arriviamo verso la conclusione. Questo suo lavoro cosa è stato? In qualche modo uno sfogo e la necessità, insomma, di espellere anche le tossine di un percorso che è evidentemente complesso, anche di sofferenza, ora che ha raggiunto un risultato in una grande, una prestigiosa università? No, beh, non è stato uno sfogo, non è stato il sassolino nella scarpa, è stata invece la volontà di obbedire a un dovere di testimoniare. Insomma, io ho la fortuna di essermi salvato da questo sistema e di averlo conosciuto. Credo che sia un dovere parlarne e informare del mio caso molti che hanno una conoscenza approssimativa della situazione. So che è il mio caso, ma so anche che moltissimi altri vivono questa situazione. Non ho la pretesa di aver raccontato la verità, è una verità, ma come tale credo che meriti di essere ascoltata. Farlo dall'interno è molto difficile. È difficilissimo. Il ricatto è molto forte. Il ricatto è forte e anche l'adeguamento è tale per cui non si riesce ad avere una prospettiva alternativa. Io non credo che avrei mai potuto scrivere questo libro se fossi stato trasferito in un'altra università italiana. Io ringrazio Nicola Gardini di essere stato con noi. Ricordo ai nostri ascoltatori www.radio24.it per sentire questa, sentire, risentire questa e le altre trasmissioni, e naturalmente come sempre il nostro indirizzo mail 30minuti@radio24.it. Infine un ringraziamento a Carmelo Lauricella questa sera in regia. Un saluto a voi e alla prossima settimana.